servizi di segreteria telefonica. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Ciao Matteo, sono Giovanni. Senti, lo so che ti sembra assurdo, ma ti giuro, non saprei davvero a chi chiedere quello che sto per chiederti. Potresti sostituirmi al lavoro? Solo per un mese. Io e Viola dobbiamo partire per Valencia, è molto importante. Settimana prossima. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, quasi 8. Questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Il telefono è sempre un elemento di rottura. In quasi tutti i film, romanzi, telefilm, storia fumetti. In tutti, ad un certo punto, arriva sempre una telefonata. Di solito arriva nella notte. In quel caso è qualcosa che è andato storto sul lavoro e quindi il capo è costretto a lasciare il tepore del suo letto per andare a sistemare qualcosa che sta andando storto. A volte invece arriva mentre il protagonista è in ufficio e lì, se l'attore è bravo, ma bravo bravo, la sua espressione cambia in un modo che tu capisci subito che cosa è successo, o almeno lo intuisci. Da quando ci sono i cellulari, poi moltissime telefonate importanti nei film arrivano dappertutto, sotto la pioggia per strada, o in automobile, o mentre il protagonista sta facendo sesso con una donna che di solito non è la sua. Comunque sia, che si tratti di un film o della vita vera, la telefonata importante ci prende sempre alla sprovvista. Come un temporale durante un giro in bicicletta. Perché le telefonate, quelle vere, quelle importanti, quelle che cambiano la nostra vita, arrivano mentre siamo intenti a fare altro. Mentre stiamo cucinando, mangiando, andando in Vespa. Mentre stiamo facendo la doccia, la spesa, l'amore. Arrivano quando la nostra mente è impegnata in altro, in sostanza, quando non ci stiamo pensando. Provate a ricordare a quante volte è arrivata una telefonata proprio mentre stavate aspettando che quella telefonata arrivasse. Mentre stavate guardando il cellulare, mentre alzavate la cornetta per controllare che ci fosse la linea. Mentre vi tenevate libere da impegni per essere liberi di rispondere. Ci avete pensato? Quante volte è successo? Mai. La telefonata che aspettiamo è sempre in attesa. Ecco perché se vi è arrivata una telefonata che ha cambiato la vostra vita, ve la ricordate. Perché la vostra vita da allora ha preso una piega diversa. Ma soprattutto perché non eravate pronti per riceverla. 800240024 349-238-6666. Avete presente, no? Scusate. Una telefonata che vi ha fatto svoltare la vostra vita, nel bene o nel male. Una telefonata che, aspettavate magari, ma non in quel momento lì. Una telefonata che quando è arrivata avete messo giù e avete detto ok, ora si ricomincia. 800240024. Ci sono proprio dei momenti in cui, quando quella telefonata arriva, voi avete capito che qualcosa di quello che facevate prima non vi serve più. E vi serve altro, qualcosa di nuovo. Mi scrivono, ad esempio, Antonio mi ha scritto questo messaggio prima su Facebook. Nel 2000 ho fatto un prelievo per un controllo della salute. Dopo 2 giorni mi chiama il mio medico e mi chiede al telefono se frequento altre donne, prostitute, o se avessi fatto delle trasfusioni. Io, preoccupatissimo, rispondo di no e chiedo informazioni. Lui mi dice che il controllo dell'AIDS è incerto, che devo interrompere le donazioni e sottopormi ad un controllo accurato. Ho vissuto le 2 settimane più lunghe della mia vita dopo quella telefonata. Sono andato a riabbracciare le persone con cui avevo litigato, i miei amici che non vedevo da tempo. Ho fatto un viaggio, ma al rientro mi hanno riferito che stavo bene. Era solo un falso allarme. Io avrei voluto spaccare la faccia del mio medico per quella telefonata. Ecco, io sono qui. 800240024. Fabio invece mi scrive: io la sto ancora aspettando e quasi non riesco più a dormire. Christian, anche lui: io la sto aspettando e speriamo che arrivi. E Maddi però anche mi dice: era il giugno del 2005, ero a prendere il sole in una spiaggia salernitana con la mia migliore amica. Ero felice, la scuola era finita ed ero in vacanza. In tarda mattinata mi arriva la telefonata di mia mamma. Con una voce tra lo stupito e il disperato mi comunica dell'arrivo di una lettera da parte della mia scuola con l'avviso della mia bocciatura. Non me lo aspettavo. Forse è stata la prima grande batosta della mia vita, che però mi ha insegnato a cadere, a rialzarmi 1000 volte, e arrivò con quella telefonata lì. Insomma, se di recente, se magari oggi o ieri avete ricevuto una telefonata inaspettata e che un pochettino vi ha fatto svoltare la giornata e probabilmente anche il vostro futuro, il numero è quello: 800240024. Pronto? Ciao Neo, sai con chi parli? Morpheus. Già, ti stavo cercando, Neo. Un'altra piccola cosa che non c'entra con le telefonate, c'entra con il fatto invece che Radio 24 è la radio ufficiale del Beat, della Beat, e noi venerdì, questo venerdì, cioè venerdì 18 febbraio, siamo in diretta al Padiglione 3, lo stand è il B49C50. Questa è una notizia. L'altra notizia invece è che oggi, e solo per oggi, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto a Io Sono Qui, ed è regaliamo due ingressi gratis, o meglio due coppie di ingressi gratis, cioè regaliamo a una persona due biglietti per entrare, no, a due persone due, cioè, insomma regaliamo quattro biglietti per due persone, giusto? Cioè, nel senso che uno che si aggiudica un biglietto si può portare chi vuole. Ne regaliamo due coppie di due biglietti, ce la posso fare. Vabbè, ci sono quattro biglietti e due se li possono aggiudicare. Come se li aggiudicano? Devono mandare un sms al 349-238-6666. Facciamo tutto live in questo momento, ok? Scegliamo noi, in base a che cosa? Visto che di fatto vi facciamo entrare a UFO, si dice così in tutta Italia, credo. Cioè, vi facciamo entrare gratis alla Borsa Internazionale del Turismo, dove potete farvi un giro o mai più senza, oserei dire. La Beat, voi che cosa fate? Mi raccontate qual è stata la migliore scusa con cui siete entrati gratis in un posto, che fosse un concerto, che fosse uno spettacolo, che fosse una festa, lo stadio, il teatro. La scusa migliore che vi siete inventati per fare, come si suol dire, i portoghesi, con tutto rispetto per i portoghesi. Me la scrivete e le due migliori scuse vincono due biglietti per due persone alla Beat di venerdì, giusto? O forse quando vogliono, per venerdì o sabato, sabato e domenica, per sabato o domenica. 349-238-6666. Si vede che non l'abbiamo mai fatta questa cosa, eh? 349-238-6666. Io ho un amico che una volta è entrato al concerto degli U2 ed ero presente, quindi l'ho visto. Concerto degli U2 di Torino era venuto fuori l'anno, del 2001. Lui faceva il tecnico, lavorava in uno studio e è andato a prendere un cavo per i microfoni, o forse un cavo per le casse. E si è presentato al retropalco e ha detto: "Salve, sono l'uomo del cavo." L'hanno fatto entrare, lui è entrato nel retropalco, si è seguito il concerto da dietro le quinte, ha ripreso il suo cavo ed è uscito. 349-238-6666, la scusa migliore con cui siete entrati gratis, che si trattasse di un concerto, che si trattasse di uno spettacolo a teatro o allo stadio, per avere due biglietti gratis alla Beat di Milano per sabato o domenica. Il numero è 349-238-6666. Quando aveva 12 anni, Giovanni Denaro fu spogliato dai suoi compagni nell'atrio della scuola. Lui non era a scuola con me, ancora non lo conoscevo, però me l'ha raccontato lui. Quando faceva le scuole medie, Giovanni Denaro andava sempre a scuola in tuta, anche quando non aveva lezioni di educazione fisica. Diceva che ci stava comodo e che non aveva il problema di pensare a cosa mettersi ogni mattina. Ne aveva due di tute che alternava una settimana. Erano di quelle tute con il cappuccio, quelle con il tascone davanti per infilarci la mano. C'aveva gli elastici alle caviglie, avete presente? Di quelle che si infeltrivano al primo lavaggio, e al secondo erano già lise. Una rossa e una gialla erano le tute di Giovanni Denaro, così, giusto per non passare inosservato. Tra l'altro non le sceglieva lui, come tutti gli abiti del suo guardaroba all'epoca era sua mamma che glieli comprava. Ed è stato così fino ai 28 anni. Lui sosteneva di non avere gusto e di non essere interessato all'abbigliamento, quindi demandava tutto a sua madre, che ovviamente era ben contenta di prendersi questo compito. Insomma, un giorno i suoi compagni, stufi di vederlo sempre in tuta, lo accerchiano durante l'intervallo, lo fanno nell'atrio che è affollato di ragazzi e soprattutto di ragazze, e gli sfilano i pantaloni e la felpa, lasciandolo in mutande, maglietta e calzini. Non so perché Giovanni abbia deciso di raccontarmi questa storia quando ci siamo conosciuti anni dopo. Forse perché era stata una piccola violenza che lo aveva segnato. Giovanni Denaro era un terzino sinistro, quando io ero il terzino destro nella AS Romentinese. Lui non era del mio paese, ma ci veniva apposta per giocare. Non è che avesse dei grandi piedi, però aveva un ottimo senso della posizione. Giovanni è una di quelle persone che piacciono a tutti, perché è timido ma è divertente. Attorno ai 20 anni è capitato di uscire insieme con lo stesso gruppo di amici ed era incredibile come Giovanni fosse il più brillante, ma anche il meno capace di conquistare una ragazza. Tutte ridevano, tutte lo ascoltavano, ma poi, quando c'era da stringere, niente da fare. A ripensarlo 15 anni fa lo ricordo come una figura a cavallo tra uno molto in gamba e uno molto sfigato. Quando ho rivisto dietro il banco di una biblioteca ho pensato che ci stava proprio bene lì e che ci sono persone che fanno dei lavori che gli assomigliano. Perché anche lavorare in biblioteca sta a metà tra una cosa bellissima e una cosa noiosissima, un po' come sempre è stato lui. Ma la vera notizia era che Giovanni Denaro si era sposato. Fino a quando l'ho frequentato io, attorno ai 25 anni, Giovanni non aveva mai avuto una fidanzata. Che sembra una cosa assurda, però succede molto più di frequente di quanto si pensi. Poi, attorno ai 30, Giovanni ha conosciuto Viola. L'altro giorno siamo usciti a prendere un caffè, anche se poi ammetto che ho la solita storia che non bevo caffè e prendo cappuccini in orari assurdi come un tedesco, però vabbè, alla fine quella è sempre una scusa. Lui e Viola si sono conosciuti in biblioteca, proprio come in un copione scritto male. Lei ci andava per studiare e per noleggiare DVD gratis. Ci hanno messo 2 anni ad andare oltre al buongiorno e buonasera, finché un giorno lei era in ritardo con una riconsegna e lui ne ha approfittato per chiamarla. Sono sposati da 5 anni e vivono a Novara. Mentre mi raccontava questi ultimi 15 anni di vita, Giovanni aveva un'espressione malinconicamente felice. Come se un velo coprisse il sorriso di un uomo che non aveva chiesto poi tanto alla vita e in fondo aveva ottenuto quasi tutto. Teneva in mano lo scontrino del bar e lo arrotolava su se stesso come a preparare una sigaretta. Poi lo srotolava, lo stirava bene tenendolo tra il pollice e l'indice e poi lo riallotolava di nuovo. Per quasi 20 minuti ha parlato solo lui. Poi a un tratto ha alzato la testa e mi ha fatto la prima domanda. «E tu? Hai figli?» Io gli ho detto di no e mi è sembrato strano che me lo domandasse come prima domanda, visto che di solito al massimo si chiede se sei sposato o fidanzato, no? Come per seguire una sorta di iter dell'interrogatorio. Mi ha chiesto se ne volessi di figli e io a questa domanda non so mai come rispondere, gli ho risposto che manco mia madre me l'aveva ancora chiesto. E lui lì ha tirato giù quel velo, quello di malinconia, e mi ha detto che lui e Viola lo volevano tantissimo, che ci stavano provando da quasi 3 anni, forse di più, che avevano fatto degli esami e c'erano dei piccoli problemi. Ed io ho capito che era di quello che voleva parlare Giovanni. Forse era di quello che voleva parlare con tutti, non solo con me. Come un chiodo piantato in mezzo alla testa che non gli permetteva di vedere, di sentire o di pensare a nient'altro. Mi ha detto che ora però avevano trovato un modo, che a Valencia c'è un centro specializzato e che loro avevano intenzione di andarci. Per 10 minuti mi ha raccontato cose che non conoscevo e che spesso non capivo. L'unica cosa che davvero mi è arrivata di quella conversazione è stata l'irrefrenabile desiderio di quella coppia di avere un figlio. Le ho chiesto quando sarebbero partiti e lui mi ha detto che aspettavano una chiamata da un momento all'altro e che sperava non arrivasse troppo presto perché lui aveva dei problemi al lavoro e muoversi sarebbe stato un casino. Poi a un certo punto lui ha guardato l'ora e mi ha detto che era tardi, doveva rientrare al lavoro. Ci siamo schiamati i numeri e sono venuti in radio. E poi ieri dopo il programma ho acceso il cellulare e ho trovato un suo messaggio in segreteria. Un nuovo messaggio. Primo messaggio. Messaggio da chiamante esterno. Dirty road to fame, my lord. Now there she goes a little hearty. There she goes a little pain. Make no mistake, sheds her skin like a snake. You're going to walk the plank. I can't walk the plank again, my lord. Now. Servizi di segreteria telefonica. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Ciao Matteo, sono Giovanni. Senti, lo so che ti sembra assurdo, ma ti giuro, non saprei davvero a chi chiedere quello che sto per chiederti. Potresti sostituirmi al lavoro? Solo per un mese. Io e Viola dobbiamo partire per Valencia, è molto importante. Settimana prossima. Sono Sono le 16.24, questa è Radio 24 e questa è la telefonata che mi è arrivata in segreteria ieri. Non era chiaramente la telefonata che ha cambiato la mia vita, è stata la telefonata che ha ricevuto Giovanni che gli ha cambiato la vita o che sta per cambiargliela nei prossimi giorni. Vi racconterò cosa sta succedendo, anche se la richiesta che mi ha fatto è un pochettino mi spiazza. Durante lo shopping natalizio con mia moglie, 23 dicembre del 2009, in attesa chiamata di quello che ora è il mio capo, che mi annuncia che la mia domanda di lavoro è stata accettata, svolta importante. Non male, l'antivigilia. Le telefonate non arrivano neppure se si leggono i libri del supermercato che ci mettono in contatto con l'universo? Guarda, credo proprio di no. Però, se hai qualche segreto. Facevo la doccia e mi hanno chiamato per dirmi che mio papà era morto. Silvia. Oggi poi ho ricevuto questo messaggio invece. È arrivata questa mattina da Londra la telefonata che potrebbe cambiarmi la vita. Vogliono conoscermi personalmente per uno stage. Sta a me scegliere dove incontrarli, a Roma o a Londra. Pronto, Lucia? Ehi, pronto. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie, tu? Beh, me la cavo. Senti, raccontami innanzitutto tu che cosa fai nella vita e di che telefonata si tratta, quella che hai ricevuto stamani. Io studio giurisprudenza a Palermo. Sì. E stamattina è arrivata una telefonata da Londra che aspettavo da settembre per uno stage. Di che tipo? Tirocinio nell'ambito di un progetto comunitario, Erasmus Placement. Mi paga la comunità europea e le aziende hanno stagisti gratis. Scusami, c'entra con l'Erasmus? No, è un'altra cosa. Sì, l'Erasmus classico è lo studio, questo è per fare proprio 3 mesi di tirocinio, per entrare nel mondo del lavoro sostanzialmente. Ma scusami, ha a che fare con quello che studi oppure no? Mi auguro, cioè io ho fatto la domanda per uno studio legale, quindi andrò a fare tirocinio presso uno studio legale. Ma ti piazzano loro però, cioè... No, il contatto lo trovo io, il contatto lo trovano gli studenti, per cui prima ho cercato in Spagna, ma non è andata e così per caso, per una coincidenza di 2 minuti, è arrivato il contatto da Londra. In che senso una coincidenza di 2 minuti, Lucia? Perché la persona che era davanti a me ha accettato un posto per Lussemburgo mentre aspettava di andare a Londra. Non appena accettato, gli è arrivata la proposta da Londra. Lui ovviamente non poteva più accettarla ed è passata a me. Cosa stavi facendo stamattina quando ti è arrivata la telefonata? Scrivevo la tesi. E quando partirai? Oppure quando accade tutto questo? Allora, adesso mi è arrivata un'email, mi hanno chiesto di vederli domani a Roma. Mm-hmm. Proprio in questo secondo, e vorrei partire il 2 marzo per cominciare insomma dal 7. Questo però vuol dire che tu tipo stasera o domani devi andare a Roma? Sì, sto guardando già i voli infatti, praticamente. Ok, siamo proprio real time. Senti, sì. Lucia, facci sapere com'è andata, ma soprattutto facci capire se tutto ciò ha a che fare con quello che vuoi fare oppure no, perché in un modo o nell'altro... Certo, io vorrei fare l'avvocato in ambito internazionale, per cui dico, lavorare in uno dei più grandi studi internazionali è quanto di meglio posso desiderare. Quanti anni hai, Lucia? 23. Ok, Lucia, ti faccio un sacco di in bocca al lupo. Grazie. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Poi mi è arrivato anche un altro messaggio che non ha a che fare col lavoro, ma perché ha a che fare con altro, come al solito, a proposito di telefonate. Sara, estate 2009, lavoro un mese a Londra e lì conosco lui, H. Che sembra il nome di un medicinale. Ragazzo spagnolo, dopo settimane bellissime di reale arriva il momento di tornare a casa, alla vita di sempre, al nuovo anno di università. Appena scendo dall'aereo lui mi chiama e io penso, allora forse non è finita, puntini puntini. Però Sara, non ci hai detto com'è finita, però se è finita o non è finita. 349-238-6666 perché è ancora aperta la gara per vincere vero mai più senza 2 biglietti per l'ingresso alla Beat di sabato o domenica. Adesso la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella fotografia di oggi siamo in un bosco, siamo in autunno. Questa è una fotografia particolare però e lo si capisce già guardandola e lo si capirà ancora di più poi quando leggerà la didascalia la persona che l'ha scattata, o meglio che l'ha presa, che non l'ha scattata, perché è una fotografia che nella parte destra è molto a fuoco, c'è un albero, ci sono delle foglie per terra, c'è l'erba verde e in fondo un'altra fila di alberi, credo sia un parco più che un bosco. Nella parte sinistra invece c'è qualcosa di sfocato, di sfuggente, come se fosse stata fatta con un grand'angolo oppure da una macchina in movimento. Federico Gerlin, 33 anni, parco di Bribano, provincia di Belluno. Ci è voluto lo scatto di un anonimo fotografo che ha pubblicato la sua foto su Google Earth per farmi capire, trasfigurandola di bellezza, come la solitaria panchina a 100 metri da casa è l'unico posto dove posso voler essere. Io sono qui. trasfigurandola di bellezza. Federico, credo fossero 15 anni che non sentivo queste due parole insieme. Ai tempi probabilmente di Pascoli, sì, di quando studiavo o non lo studiavo. Federico ha preso una foto su Google Earth, oppure su, anche semplicemente su Google Map, quando cliccate sull'omino, è andato a vedere quello che più o meno abbiamo fatto tutti. Com'è casa nostra o il luogo in cui viviamo vista da Google? E l'effetto è decisamente bello. In questo caso è proprio bello, per cui andate a vederlo sul sito radio24.it, la pagina di Io Sono Qui. La cosa che mi piacerebbe, voi potete mandarmi la foto che volete ovviamente, perché è il posto in cui vi trovate, il luogo in cui siete. Mi piacerebbe però che mi arrivassero delle foto in cui, che raccontano un pochettino più di voi che non del posto in cui siete. Foto che raccontano della vostra scrivania, degli abiti che mettete, del luogo in cui lavorate, o di vostra moglie magari, o del cinema che frequentate più di frequente. Matteo Caccia, Io Sono Qui è il profilo Facebook dove caricare le foto, oppure potete inviarle all'indirizzo io sono qui chiocciolaradio24.it. intanto, di là in regia, tra Viola Bottoni, Claudia e Tiziano Bonini, c'è una bagarre per decidere il vincitore, i due vincitori che vinceranno due biglietti a testa per la Beat di sabato e domenica alla Fiera di Milano. Vi leggo alcuni dei messaggi che sono arrivati. Ero in Puglia quest'estate, una serata di Bob Sinclair in una nota discoteca del Salento. All'ingresso del parcheggio ho iniziato a parlare in inglese stretto, non so come sia l'inglese stretto, dicendo di essere l'assistente di Sinclair. Mi hanno fatto parcheggiare la macchina gratis davanti all'entrata e ovviamente ingresso gratuito in zona VIP. Sono entrato al comunale di Torino nel 76, quando il Torino vinse lo scudetto, a fare fotografia come fotoreporter professionista che non sono. La settimana del mio matrimonio, no, questo è un altro. Entrati in disco Lido di Cadenebbia a nuoto, sorpresi all'esterno in costume, ci siamo giustificati. I nostri amici hanno nascosto i vestiti, ce li hanno fatti prendere. Siamo rientrati senza pagare. Marco, uno che è entrato da Roma non so dove dicendo sono lo sponsor, oppure sono uscito un attimo a telefonare, mi fate rientrare per piacere. 349-238-6666, a breve si chiude la gara per vincere due biglietti di sabato e di domenica. Andiamo però da Francesca a Pisa, perché Francesca ha ricevuto una telefonata completamente inaspettata da quello che sarebbe diventato suo marito. Pronto Francesca? Pronto Matteo. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, buonasera anzi. Buonasera. Senti, raccontami quando è successo, esattamente che tipo di telefonata era. Allora, è stata una telefonata completamente inattesa. Io stavo facendo shopping con una mia amica, tranquillissima, squilla il telefono. Era questo collega di lavoro, molto carino, ma di 4 anni più giovane di me, che io non avevo assolutamente, diciamo, preso in considerazione. Scusa, quanti anni avevi all'epoca, Francesca? Io avevo 26 anni e lui 22. Quindi a 26 anni effettivamente 4 anni di differenza fanno, sono sostanza. Sì, e come? E lui, io ho detto, ma questo qui mi prende in giro assolutamente. Lui si era procurato il numero del telefono da un amico comune. Questa telefonata mi ha spiazzato completamente. E piano piano io ho iniziato a fidarmi di lui e non ci siamo più lasciati. Quindi adesso siete sposati? Sposati con un bimbo. Quanti anni hai, Francesca? 38. E lui ne ha sempre 30... 34. 30, 34. Tu hai detto stavi facendo shopping quel giorno. Esatto, ero in un grande magazzino con una mia amica, è squillato il telefono e come... siamo rimaste stupidissime. E come l'aveva avuto sto numero alla fine? Lui, da un nostro amico comune. Ah, vabbè, senza dirmi niente, si era procacciato il numero e mi ha chiamato. Francesca, ti ringrazio molto, in bocca al lupo per tutto e per la tua bimba. Grazie, ciao, per il bimbo, perdonami, ciao, buona giornata. Mi scrivono che si dice a entrare a UFO, a proposito di entrare gratis, viene da AUF, che è un acronimo che sta per Ad Usum Fabriche. Stampato sulle casse del materiale destinato alla costruzione di San Pietro, serviva per non pagare i dazi. Però alcuni mi dicono che invece questa cosa era stampata anche sulle casse che servivano a trasportare il materiale per il Duomo di Milano e non pagava i dazi lungo i navigli. Forse era semplicemente una sigla che valeva per qualsiasi trasporto che non dovesse pagare i dazi. Ma forse siamo arrivati al dunque, giusto? Siamo arrivati al dunque. Diciamo, vi leggo prima qualche altro messaggio che è arrivato. Appunto, sono entrato dicendo che era un fotografo, ma non era vero. Salone del mobile, domanda se fossi in lista, ho risposto ho fatto studi classici. che non so cosa voglia dire, però i vincitori del concorso di oggi, che proviamo a chiamare in onda così, un po' come una telefonata che potrebbe cambiarti la vita, sono due, e sono, ve lo dico subito, si vede che siamo proprio abituati a fare, Aldo, che è entrato allo stadio dicendo che faceva parte del catering, e Roberto, che è andato a un concerto di Vasco dicendo che doveva portare un trancio di pizza a Vasco. Pronto? Pronto? Ciao, io sono Matteo, tu chi sei? Ciao, sono Aldo. Ciao Aldo, senti, cosa stavi facendo? Sono sul lavoro, avevo quasi finito, ormai sono agli sgoccioli. Che lavoro fai? Sono un cuoco. Sei un cuoco? Senti, sì, sono un cuoco vero, a dire il vero. Ah, ok, tu sei un cuoco vero, però raccontami com'è andata e dove eri, cosa è successo. Praticamente avevo fatto in precedenza un servizio catering presso lo stadio delle Alpi. Sì. E poi quando c'è stata una partita che mi interessava, così sono andato lì con la giacca da cuoco sotto la giacca, sotto il giubbotto, e io ho detto, sono il cuoco, devo entrare perché devo preparare per il catering, e mi hanno fatto entrare. E che partita era? E poi mi sembra che era Juventus Udinese, mi sembra. E sì, ti ricordi quanto è finita? Aveva vinto la Juve. Ma veramente? Sì, sì, mi sono poi andato a sedermi in tribuna. Tribuna VIP. Se, addirittura. Senti Aldo, tu sei libero sabato o domenica? Sì. Beh, perché guarda che hai due biglietti. Chi ti porti alla BIT? Penso alla moglie. Beh, penso. Devo sempre vedere se vuole. Vabbè, insomma, da qui ad allora fatti un'idea. Niente, credo che tu rimanga in linea e Viola ti dice come fare per avere i biglietti. Beh, comunque devo dire, è la prima volta che faccio. Tento un concorso, cioè guarda, qualcosa da vincere, e ho vinto, guarda, bella percentuale. Siamo in due, infatti direi non tentare mai più, Aldo, che c'hai il 100% delle possibilità. Grazie, buona comunque, giornata. Grazie, saluto ciao, tutti. Alla prossima, ciao. Saluto tutti, è proprio da Quiz che vince. Voglio salutare anche la mamma. Abbiamo però in teoria anche l'altro vincitore, che è Roberto da Bergamo, giusto? Pronto? Pronto, Roberto? Sì. Sono Matteo Caccia di Radio 24. Ehi, hey, come stai? Bene, bene. Senti, tu hai vinto. Ah sì, davvero? Sì, non ci credevi? No, è la prima volta che provo. Ma fantastico, oggi è un sacco di prime volte. Senti, raccontami la storia del concerto di Vasco. Niente, eravamo io e il mio amico, stavamo andando a concerto a Verona, ma ancora un po' di anni fa. Sì. E quando siamo arrivati davanti allo stadio, all'arena, allo stadio, praticamente ha dimenticato i biglietti. Ah, ma ce li avevate però? No, li avevamo, solo che aveva dimenticato i biglietti a casa. Sì. Quindi non avendo biglietti, lui... abbiamo girato un po' intorno, abbiamo visto una pizzeria, abbiamo avuto questo lampo disegno, abbiamo comprato due scatole a testa di tranci di pizza e siamo entrati, ci hanno fatto entrare da dietro, perché poi io so presso poco perché lavoro un po' nel mondo... Scusa, dicendo devo portare da mangiare a Vasco? No, ci hanno ordinato le pizze per i camerini e dobbiamo portare le pizze. Però non siamo arrivati i camerini, ci siamo fermati prima. Lo immagino. Senti Roberto, tu sabato domenica puoi portare una persona alla BIT presso la fiera di Ropero di Milano. Ho detto presso, ragazzi, credo forse dall'85, non lo dicevo. Non hai nemmeno bisogno di scuse, perché te le regaliamo. Rimani in linea e Viola ti dice come e quando. E io ti ringrazio. Grazie, ciao. Ciao Roberto, buona giornata. Grazie a lui, grazie a Viola che si sta smazzando tutte le telefonate, grazie a Paolino Corleoni e a Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?